sé, Signore, non ascolti più la mia preghiera, non ti senti più come prima. Dove sei, Signore? Non c'è nessuno come te, ora senti la tua voce. Dove sei, Signore? Non ascolti più la mia preghiera, non ti senti più come prima. Dove sei, Signore? Non c'è nessuno come te, vorrei sentire la tua voce. Pianto tante volte, ho provato tante cose, vorrei sentire la tua voce quando piango di notte. E il mio cuore non smette mai battere per te, e non scorderò le promesse ho fatte. E quel momento bui, quando tu mi cercherai, io sarò lì per te, ti aspetto. Dove sei, mio Padre? Dove sei, Signore? Non ascolti più la mia preghiera, non ti senti più come prima. Dove sei, Signore? Non c'è nessuno come te, vorrei sentire la tua voce. Dove sei? Dove sei? Dove sei, mio Signore? Dove sei? Dove sei, mio Signore? Dove sei? Dove sei? Dove sei, mio Signore? Stringimi a te, mio Padre. La tua vita è dentro a me, è mio tempo, è tuo Signore, vuole stare con te. Per fare la tua volontà, Spirito Santo chiede la tua forza, la tua voce è quello vuole sentire. Ho bisogno solo di te, non lasciami così, ascolta la mia preghiera, ascolta la mia voce, ascolta la mia canzone, sono tuo figlio, ti prego, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Dove sei, alleluia. Dove sei, mio Signore? Dove sei, dove sei? Dove sei, mio Signore? Dove sei, Signore? ascolti di più la mia preghiera, non ti senti più come prima. Dove sei, mio Signore? Non c'è nessuno come te, vorrei sentire la tua voce. Alleluia. Ti prego, tu non lasciami così, mio Signore.